C'è una statua di legno all'interno di una nicchia del teatro anatomico che ritrae un uomo che tiene tra le dita un naso. Si tratta di Gaspare Tagliacozzi, che fu lettore di medicina presso l'Università di Bologna sulla fine del Cinquecento. Non sarà stato l'inventore della chirurgia plastica, Tagliacozzi, ma di certo è stato il primo ad applicare a essa il metodo scientifico. Ma facciamo un passo indietro, a quando era uno studente di medicina e, come altri suoi compagni di corso, si dilettava nello studio dell'anatomia sui cadaveri dei giustiziati forniti dal vicino ospedale della morte, che, come sappiamo, era adiacente all'archiginnasio. Va detto che Tagliacozzi mantenne sempre vivi i rapporti con la confraternita della morte, al punto che a essa affidò le disposizioni testamentarie per la sua sepoltura. Tra i maestri di Tagliacozzi ricordiamo Girolamo Cardano per la medicina e Ulisse Aldrovandi per le scienze naturali. Entrambi furono personalità di spicco, non solo nell'ambito universitario bolognese, ma per quanto riguarda l'intero ambiente scientifico europeo, che stava posando le fondamenta proprio in quegli anni. Girolamo Cardano è stato un personaggio estremamente significativo del Rinascimento italiano, primo artefice della teoria della probabilità e tra i principali contributori all'invenzione della serratura a combinazione e alla cosiddetta sospensione cardanica, un elemento alla base del funzionamento delle bussole nautiche. Come molti degli innovatori suoi contemporanei, Cardano dovette fare i conti con una certa ostilità da parte delle autorità religiose. Fu infatti accusato di eresia nel 1570 a causa di un oroscopo di Gesù Cristo che pubblicò nel 1554, accusa che gli costò la cattedra a Bologna. Fu rinchiuso in carcere per mesi e infine costretto ad abiurare. Una curiosità. Pare che Cardano abbia elaborato i principi della probabilità durante la sua ricerca di un metodo efficace per barare al gioco d'azzardo, un vizio con cui tentò più volte nel corso della sua vita di sfuggire alle difficoltà finanziarie che lo affliggevano. Ulisse Aldrovandi è ancora oggi un punto di riferimento per i naturalisti italiani. Naturalista, botanico ed entomologo, fu un acceso sostenitore dell'importanza dell'osservazione nel processo di scoperta dei meccanismi della natura. Per caratterizzare un animale o una pianta non è sufficiente parlarne, occorre anche mostrarli, far sì che all'individuazione della mente si accompagni quella dell'occhio. Aldrovandi fu promotore del Giardino dei Semplici, il primo grande orto botanico di Bologna, che era situato all'interno di Palazzo D'Accursio, più o meno dove oggi c'è la Sala Borsa, e fu protagonista di una lunga disputa in merito alla composizione della teriaca, un preparato farmaceutico considerato all'epoca una sorta di panacea per tutti i mali. Questo gli creò qualche nemico di troppo per via del giro d'affari che il preparato consentiva agli speziali. Al pari di Cardano, anche Aldrovandi fu accusato di eresia. Non sono note però le circostanze né le motivazioni, e costretto alla biura da Papa Paolo III, il tutto però si risolse con una piena assoluzione dopo la morte del pontefice. Forse perché aveva ben presente i guai con la giustizia che avevano avuto i suoi insegnanti, Gaspare Tagliacozzi fu sempre piuttosto diplomatico nel rapporto con il potere ecclesiastico, al punto che per un certo periodo fu incaricato di revisionare alcuni libri posti all'indice dal Sant'Uffizio. Questo nonostante la natura estremamente all'avanguardia della sua attività. Tagliacozzi fu infatti il più grande chirurgo plastico della sua epoca, perfezionando il cosiddetto metodo italiano per la ricostruzione di nasi, labbra e orecchie mutilati a causa di malattie o incidenti, usando brandelli di pelle del braccio sinistro. Un metodo talmente efficace da essere ancora utilizzato al giorno d'oggi. Qualcuno si chiederà, perché proprio il braccio sinistro? Il motivo è che la pelle di questa parte poteva essere staccata facilmente e aveva maggiori probabilità di aderenza. Dopo l'operazione, il paziente doveva restare per un certo periodo di tempo con il braccio legato alla testa, combaciante con la parte ricostruita, finché la pelle non avesse completamente aderito. Tagliacozzi descrisse in dettaglio il suo metodo nel trattato Decurtorum Chirurgia per Incisionem, ovvero chirurgia delle mutilazioni per mezzo di innesti, pubblicato a Venezia nel 1597. Significativa una sua lettera inviata al medico Girolamo Mercuriali nella quale descrive accuratamente le procedure, citando anche i nomi di 4 persone a cui aveva ricostruito il naso. Pare che costoro fossero più contenti del naso ricostruito che di quello originale. Sebbene l'Inquisizione non si interessò mai alle sue pratiche finché Tagliacozzi era in vita, ebbe tuttavia da ridire dopo la sua morte. Risulta agli atti, infatti, che fu istruito un processo postumo con la solita accusa di eresia. Inizialmente sepolto nella chiesa di San Giovanni Decollato, il suo corpo venne riesumato e trasferito in terra sconsacrata. È agli atti anche la piena assoluzione. E scopertasi la malvagia malignità da alcuni invidiosi alla fama di Tagliacozzi, tacciato di magia, fu con le debite solennità restituito il suo corpo alla primiera di lui sepoltura. Purtroppo, date le vicissitudini storiche della Chiesa, con la soppressione della Confraternita della Morte durante il dominio napoleonico, a causa delle ripetute ristrutturazioni dell'edificio, della sua tomba si sono ormai perse le tracce. Di Gaspare Tagliacozzi rimangono pertanto la statua nel Teatro Anatomico, alcuni ritratti, di cui uno conservato nella Facoltà di Medicina dell'Università di Parigi, e la fama di precursore della moderna chirurgia plastica. Benvenuti al Museo delle Cere.